vinto la morte corporale, ha vinto la morte dell'anima, ha vinto la morte eterna, ha potere sopra la morte e sopra gli inferi, sopra lo Sheol, e rende vincitori della morte tutti coloro che lo accolgono, accolgono la sua salvezza, vivono con lui, perseverano nella fede, si schierano con lui. Direi di andare subito a vedere i brani biblici che sintetizzano, ovviamente non sono tutti, ma ci danno un po' una visione complessiva della vittoria di Gesù sulla morte, e che sono Ebrei 2, 14, 15, 1 Corinzi 15, 3 e Romani 5, 17 e 21. Lì andrei subito a, senza troppo indugiare, a leggere. Cominciando da Ebrei 2, 2, 14, 15, che è un passo veramente fondamentale. Ops, eccolo. E che dice così, leggo la traduzione chiaramente della CEI del 2008. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Questo è il primo brano. Secondo, 1 Corinzi 15:3, poi li commentiamo. Vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve a più di 500 fratelli in una volta, e in seguito, ultimo fra tutti, apparve anche a me come un aborto. Infine, Romani 5, 17, 21, infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato, a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo dello solo Gesù Cristo. Perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, questi brani sono una sintesi, ripeto, non esaustivi, di quello che è stata l'opera di distruzione della morte e del peccato operata da nostro Signore Gesù Cristo. Cosa ha fatto Gesù fondamentalmente? Adesso poi lo andremo a vedere, no? Dettagliatamente. È morto, ha subito la morte corporale. Lui, l'innocente e quindi l'immortale, sia come uomo non peccatore, ma sia anche come Dio fatto uomo. Cioè, non rifletteremo mai abbastanza sulla morte di nostro Signore Gesù Cristo, quindi su quello che Lui ha passato per noi e come era necessario che Lui vivesse questa cosa perché la potesse distruggere dal di dentro. Stasera capiremo attraverso questa catechesi un qualcosa di quello che si è inventato nostro Signore per la nostra redenzione. Perché, come dice San Pietro, noi dobbiamo essere in grado di saper rispondere della nostra fede, anzitutto a noi stessi e poi anche agli altri. Cioè, tu chiediti un attimo una cosa: perché nostro Signore Gesù Cristo ha sofferto ed è morto? Era proprio necessario. Perché Dio non fa cose inutili. Amici, per molte persone, il nostro Signore Gesù Cristo oggi, e non vorrei che ci fosse anche qualche battezzato o addirittura qualcosa di più di battezzato, e non aggiungo altro, per molti il nostro Signore Gesù Cristo è diventato semplicemente un personaggio inutile. Perché se, capite, se noi non conosciamo, senza la conoscenza e la comprensione della conoscenza, non ci può essere nulla, no? Cioè, noi al catechismo abbiamo insegnato la tiritera, no? Quindi la formuletta che poi Una volta si impara a memoria, ma se impara più manco a memoria, così c'è più manco questo, cioè che il nostro Signore è morto per salvarci dai nostri peccati. Questo più o meno, una reminiscenza di una frase di questo genere dentro le teste ci dovrebbe stare, no? Ma il contenuto, perché ha dovuto morire per salvarci dai nostri peccati? Morire, la morte corporale, perché? La fede risponde a queste cose, eh? Perché Dio non fa cose inutili, né fa cose a vanvera o a casaccio. Dio fa cose santissime, non soltanto le cose santissime, l'abbiamo già visto, credo, in questo ciclo di catechesi, fa le migliori che si possono fare. Quindi, questa è la domanda che dobbiamo porci. Come mai Gesù è morto? Allora, la rivelazione del Nuovo Testamento, quindi sintetizzata in questi brani che abbiamo visto, sintetizzata, ce ne sono tantissimi, questi sono scelti anche perché citati nel Catechismo della Chiesa, un po' come brani emblematici, no? Perché la lettera agli Ebrei mostra che la morte è stata la vittoria sulla morte corporale e sul signore della morte, perché c'è un signore della morte, che è il diavolo. La lettera ai Romani mostra come tutti siamo stati soggetti in Adamo alla legge del peccato e quindi della morte. Il peccato aveva regnato con la morte. E adesso che succede? Adesso regna la grazia, non il peccato, con la giustizia per la vita eterna, che certamente comincia qui, non ci esimerà dal passaggio attraverso la morte corporale, ma bisogna vedere che cosa sarà la morte corporale, l'abbiamo già visto la volta scorsa. Perché la morte corporale per un figlio di Dio è come, cioè, quando noi ci separiamo da qualche persona amata. Ma non vediamo l'ora che ritorna, no? Voi immaginate una persona che ci ha avuto la grazia di vedere, che ne so, Gesù Cristo o la Madonna, e poi a un certo punto non lo vede più. Cioè, non immaginate che questa persona starà tutto quanto il giorno, tutta la vita aspettando il ritorno, no? E quando ritornerà, diceva, finalmente non ce la facevo più. Ma per noi la morte è questa, cioè noi torniamo a casa, anzi finalmente arriviamo a casa, torniamo nella patria, perché qui ci abbiamo avuto, come dire, dei piccoli assaggi, se abbiamo vissuto in grazia, no? Quindi molto, molto, molto riflessi, molto imperfetti. Ma come ti ho già detto la volta scorsa, cioè fermo restando che noi siamo amanti della vita. E fermo restando che dobbiamo sempre avere l'umiltà di dire, ma se muoio troppo presto, cioè, posso pure desiderarlo, ma chi l'ha detto che vado in paradiso? Se poi mi devo fare un sacco di purgatorio perché siamo sicuri che ho riparato tutti i peccati che ho commesso, che li ho espiati sufficientemente, quindi che ho fatto abbastanza penitenza, che li ho pianti abbastanza, che ho un buon bagaglio di buone opere, quindi questo ci fa temperare un po', ma di fatto supponiamo che tutte queste cose stessero in regola, ma uno fa il conto alla rovescia. Il countdown, perché noi non siamo stati fatti per questo mondo? Qui in questo mondo abbiamo una conoscenza molto limitata e imperfetta dell'Altissimo. Ecco, però se il nostro Signore non moriva, amici miei, siamo tranquilli che in paradiso non ci andava nessuno. Ma sai se nessuno, eh? Chi conosce gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, c'è un passaggio straziante, commovente, nella 17ª ora della Passione. Che questo anche chi non conosce gli scritti di questa grande anima sarebbe assolutamente raccomandabile dare un'occhiata a questo piccolo capolavoro, le 24 ore della Passione, che soltanto descrivono le ultime 24 ore della vita terrena di Gesù, ma ce ne rendono in qualche modo partecipi. Nella diciassettesima ora c'è un dramma. Quando Pilato presenta Gesù alla folla, che quelli gridano crocifiggilo. Allora, chi vuole un pochino di bene al Signore, anche quando sente durante le domeniche della Passione la lettura di queste cose, dice: se ci fossi stato io avrei detto liberalo, per carità, liberalo. Ma amici miei, se fosse stato liberato sarebbe stata la fine. E infatti, dentro questa drammatica ora, dice sì, è la folla che vuole uccidere Gesù, certo. Ma il padre dice: io ti voglio morto e morto crocifisso. E udite, udite, la Madonna dice: io ti voglio morto e morto crocifisso, che per lei era, cioè, non ci poteva essere una cosa peggiore pensabile e immaginabile. E a un certo punto quella parola dice: mi sento mossa da una voce invincibile che mi fa dire anche a me: ti voglio morto e morto crocifisso, però fammi morire pure a me. Dice, e allora la folla, e Gesù spiega: ci sono due modi di volere la mia morte. Quello della folla inferocita, che quelli, per loro la mia morte sarebbe stata la loro morte eterna, perché questi mi vogliono morto per odio. Ma quelli che mi vogliono morti perché stanno imbarazzati, cioè non c'è, cioè, noi siamo, cioè, capite il dramma? Tanti esseri umani veramente che hanno abdicato al dovere di pensare, l'abbiamo già visto anche la volta scorsa. Cioè, capite in che razza di situazione? Noi siamo schiavi, cioè se qualcuno non ci tira fuori è la fine. Gli uomini sciocchi non c'hanno mica idea di chi siamo schiavi noi. Se Gesù non fosse morto, noi siamo tutti schiavi di Satana, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa e non è terminologia obsoleta. Un bambino appena nato è schiavo di Satana perché c'è il peccato originale. Se muore non andrà all'inferno, col peccato originale non andrà all'inferno, ma non vedrà Dio. Perché non a caso e non per nulla fu detto, e lo vedremo in questo ciclo di catechesi, per quelli che pensano che il limbo non esiste: se non si rinasce da acqua e da spirito, non si entra nel regno di Dio. E chi ha detto queste cose non è uno che parla a vanvera, perché il nostro Signore Gesù Cristo non parla a vanvera. Quindi quando si fanno delle affermazioni anche dotte, deludite, perché oggi va di moda a scrollarsi di dosso le cose passate, no? Che questo limbo non c'è manco scritto bene nella Bibbia, quindi queste sono tutte quante cretinate. C'è la misericordia di Dio, ti pare che un bambino che male avrà fatto, scrolliamocelo di dosso. Sì, eh? E questa cosa che ha detto nostro Signore, che cosa ci facciamo? Che facciamo? La togliamo dal Vangelo? Se uno non rinasce d'acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio, non può vedere il regno di Dio. E allora? E quando poi al peccato originale ci si aggiunge il peccato attuale, grave, attenzione, cosa che senza la grazia di Dio e senza la redenzione è impossibile evitare. Cioè, nel mondo. Questo mettiamocelo bene in testa, non esiste nessun essere umano che possa dire: io non sono peccatore, non solo perché sono nato col peccato originale, ma per quello che ho fatto. E ne basta uno di peccato grave, per cadere in schiavitù, stavolta volontaria, di Satana. E capite, cioè, quando uno cade in schiavitù, così capiamo anche, cominciamo a capire anche la dinamica di come si va a finire nell'inferno. La schiavitù, allora, la schiavitù di cui si parla qui, la schiavitù del peccato è simile. L'altro ieri è stata una bellissima memoria mariana di Santa Maria della Mercede, che pochi capiscono che cos'era. San Pietro Nolasco, e come San Raimondo de Peña, forte mi sembra che era, credo di sì, ispirati dalla Madonna a fondare un ordine che era dedicato alla liberazione dei cristiani caduti in schiavitù dei pagani a seguito della guerra. Una volta si diventava schiavi per questo motivo. Perdevi la guerra, perdevi una battaglia, i prigionieri venivano ridotti in schiavitù, erano gli schiavi di guerra. E chi li libera? Ci vuole qualcuno che li vada a liberare. Attenzione, gli schiavi di guerra, noi tutti siamo schiavi di guerra, perché il diavolo ci ha vinto, ci ha fatto cadere in Adamo. E se tu una sola volta gli dici amen ad una sua lusinga e tentazione, ti ha vinto. E una volta che quello ti mette le grinfie addosso, provaci a liberarti se sei capace. Prova. Vai a chiedere a qualcuno che sta lì, ma voi pensate che le anime dannate, ma non vorrebbero uscire dall'inferno? Ci restano volentieri, ma non possono. Non possono perché? Perché i demoni non li faranno mai uscire. E la loro forza è superiore a quella delle anime. La loro violenza non è fronteggiabile. E lì rimani, quindi. Non so se mi spiego. Ecco perché bisogna dire ti voglio morto e morto crocifisso, perché se non muori tu, muoio io. Alternativa non c'è. Ecco, io auguro a tutti quanti voi di farvi un bel fiume di lacrime, un bel fiume di pianti, perché questa è proprio una tragedia, cioè la tragedia in cui è caduta la razza umana. Ci è voluta la morte del figlio di Dio. Cioè un evento per cui dobbiamo stare a piangere per tutta la vita, perché dobbiamo comunque piangerla, ma dobbiamo piangerla, io la piango, però se non ci fosse stato sarebbe stata la fine. Questi paradossi della nostra fede, no? Allora, la morte di Gesù, quindi, che cosa è stata? Allora, la morte di Gesù è stata anzitutto espiazione. Espiazione. Prende su di sé che cosa? L'estrema conseguenza del peccato. Attenzione, nella forma più atroce ed ignominiosa. Perché muore carico dei peccati di tutto il mondo, cioè in quelle ultime 24 ore, tutto il male creato, perché proprio male creato dalla libera volontà dell'uomo ogni volta che pecca, cioè che sceglie volontariamente il male, si è riversato su di lui. Attenzione però, attenzione però. Gesù muore in questo modo violento, non meritandolo. Non meritandolo. E chi c'era dietro la morte di Gesù? Vediamo un po'. Questo si vede bene nella Passione di Mel Gibson, oppure, per chi ha lo stomaco forte, dai racconti di tanti esorcisti. No, il sabato sera durante la veglia le veglie stiamo leggendo un bel testo di colui che è diventato il successore di Padre Amorte, ora il presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, che è Padre Bamonte. Chi è che ha ucciso Gesù? Vediamo un po'. Sono stati i giudei? Forse. Sono stati i soldati romani? Allora, l'uccisore di Gesù, lo dice lui che è il diavolo. Nel film di Mel Gibson si vede benissimo, durante tutte quante le scene della passione, la flagellazione, come il diavolo stava lì a guardare, a controllare, perché tutti quelli che stavano operando, anche se evidentemente non lo sapevano, come non lo sanno gli uomini che quando peccano cascano nelle sue grinfie, erano suoi cooperatori, aizzati da lui, caricati da lui, per uccidere il figlio di Dio. Però c'è un problema, amici, che no, non solo in quanto Dio, perché questo sarebbe troppo facile, ma in quanto uomo, Gesù di Nazareth non meritava di morire, perché in lui non c'è né peccato originale e né peccato attuale. Come ha spiegato nell'ultima cena, io adesso vado, viene il principe di questo mondo, l'ha detto Gesù che l'ha ammazzato il diavolo, l'ha detto Gesù stesso quando è uscito dall'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 16. Dice, guardate che io sto per andare, viene il principe di questo mondo, egli non ha nessun potere su di me, ma adesso lo avrà. Perché? Perché gli viene dato dal Padre, perché è una trappola la redenzione, come diceva San Leone Magno, più di tutti gli altri padri della Chiesa. La redenzione è stata una trappola, perché il consegnare Gesù nelle mani dei nemici è stata un'esca. Il diavolo stupido l'ha ammazzato e l'ha ammazzato, dicono i padri della Chiesa. Perché non era sicuro al 100% che fosse il figlio di Dio. Era semplicemente un grande santo, un personaggio pericolosissimo da fare fuori. Perché se il diavolo fosse stato certo che era il figlio di Dio, essendo molto intelligente, ci sarebbe potuto arrivare che se avesse fatto una cosa di quel genere sarebbe stata la fine, perché perdeva il diritto sul genere umano. Allora, cosa succede? Il Signore della morte uccide il Figlio di Dio, evidentemente attraverso i suoi consapevoli o inconsapevoli collaboratori. Ma qui a un certo punto, allora, che cosa succede? Abuso di potere. Attenzione agli abusi di potere. Gli abusi di potere c'hanno come maestro il diavolo, che è il grande abusatore del potere. Giusto? E allora c'è un problema, dice, che cosa hai fatto tu? Tu hai fatto soffrire e hai ammazzato Gesù di Nazareth, gli dice l'Onnipotente, ma tu questo non avevi nessun diritto di farlo. E allora sai che succede? Che chiunque invocherà questo nome sarà strappato dalle tue grinfie. Gli esseri umani le meritano, le tue grinfie. Lui non le meritava. E allora che succede? Siccome tu hai alzato la mano contro di lui, in quel nome ci sarà la salvezza. Chiunque invocherà quel nome, quel sangue innocente, l'unico innocente, quella morte espiatrice che non avrebbe dovuto esserci, sarà sciolto dalle tue catene. Tu non avrai più nessun potere su quella persona. Capiamo? Questo è il meccanismo della redenzione. E al tempo stesso, quella è stata, non so, una soddisfazione vicaria per tutti i peccatori. Cioè, la prevaricazione della razza umana su Dio, fatta con il peccato, doveva avere come riparatore chi? Uno che potesse offrire un sacrificio infinito, di valore infinito. Perché l'offesa a Dio di per sé è di una gravità infinita per la qualità del soggetto offeso. Il peccato è un atto finito perché è fatto da una creatura come noi, ma il peccato offende Dio e Dio non è un ente finito. Dio è infinito. Allora ci vuole uno. Punto primo, che ci abbia la stessa dignità del soggetto offeso. Ecco perché si doveva fare uomo Dio. Perché se Gesù Cristo, per assurdo, la Madonna, dice, ma la Madonna era immacolata, non potevamo fare la Redentrice senza il Redentore? No, no, no, no. Perché la Madonna, non essendo una dea, non avrebbe avuto in sé la stessa dignità del soggetto offeso. Per cui sarebbe stato un bellissimo sacrificio gradito al Signore perché era offerto da un'anima pura, senza peccato, ma non avrebbe avuto la capacità di salvare tutto il genere umano. Ecco perché la Madonna non è la redentrice, è la co-redentrice ed in funzione totale totalmente subordinata e dipendente dalla redenzione di nostro Signore. Quindi un sacrificio di valore infinito, preso, offerto, prendendo su di sé i peccati di tutto quanto il genere umano, entrando in una morte non meritata ed essendo offerto al Padre da un soggetto che è come noi, quindi perché siamo noi che dobbiamo pagare per quella cosa, ma è anche come Lui. Ecco perché Dio ha fatto l'uomo. Questo perché comprendiamo che Dio è intelligente e che le azioni hanno delle conseguenze molto serie. Ora, evidentemente, la morte di Gesù ha trasformato il senso della nostra morte. La morte rimane e rimane come condanna estrema del peccato, come gesto di penitenza suprema. Ma dopo la morte di Gesù e la sua vittoria sulla morte, è anche diventato passaggio da questo mondo al Padre, momento di incontro e attesa della risurrezione finale, che è la nostra partecipazione alla risurrezione di Gesù. Vorrei dire qui due cose, due, tre, quattro forse. Numero uno. Quello che diceva sempre Sant'Alfonso, la morte è il gesto penitenziale estremo. Cioè, noi in questo mondo abbiamo fondamentalmente, cioè, sapete che la penitenza si chiama anche mortificazione. Perché mortificazione? Perché si tratta di darsi la morte. Non è l'eutanasia, ovviamente. San Paolo scrive nelle sue lettere: io ogni giorno affronto la morte, non nel senso che lui ha rischiato tante volte di essere ammazzato, ma non è che proprio ogni giorno c'era qualcuno che voleva ucciderlo. Ogni giorno affronto la morte vuol dire ogni giorno mi mortifico, cioè anticipo la penitenza estrema della morte con quelle che volontariamente offro al Signore, oppure offrendo con amore quelle mortificazioni che il Signore mi manda, di tutti i tipi possibili immaginabili. La fame, la sete, le offese da parte del prossimo, il caldo, il freddo, il disagio di questo, di quell'altro. Ora, Sant'Alfonso Maria dei Liguori scrive, non mi ricordo se in pratica di amare Gesù Cristo o in apparecchio o nell'apparecchio alla morte, una delle due, però mi ricordo l'informazione, quindi la do, che se un cristiano offre coscientemente la morte, accettandola come sacrificio estremo, cioè muore come atto di offerta e di volontà, quindi consapevole, dice: Signore, io accetto di morire nel momento in cui vuoi, nella forma in cui vuoi, devo soffrire? Devo morire di tumore? Lo accetto. Devo morire di vecchiaia? Lo accetto. E questo ancora di più quando la morte si avvicina, eh? Ecco perché voi non avete idea di quanto, cioè, il tema morte fa capire quanto proprio oggi siamo proprio lontani. Ma la stragrande maggioranza della gente, ma che fa? Io sono parroco, quindi chi le sa meglio di me queste cose? L'ho raccontato, ho detto infinite volte. Cioè, io il sacramento dell'olio santo, l'unzione degli infermi, ma l'ho dato pochissime volte, sono prete da quasi 20 anni. Avrò dato 40 volte l'olio santo? 50? Io non ho una grandissima memoria, per cui spero di sbagliarmi, ma io non credo che ci arriviamo a 50. Vuol dire, sono prete da quasi 20 anni, la media di 2 volte l'anno. Il problema è che i funerali che ho celebrato sono una media tra i 20 e i 30 l'anno. Che significa? Il 10%. Scarso. L'8, il 9. E questo perché? Sia a causa, ma no, io vedo in continuazione scene, no? Quando una persona sta per morire, l'unica preoccupazione dei familiari oggi è di togliergliene la coscienza, cioè illuderlo che, non, che siamo tua, ma che mo, ma non è niente, non ti preoccupare, dopo vedrai che stai meglio. E questo si scambia come gesto di affetto, come gesto di amore. E addirittura di compassione e di misericordia verso il moribondo. Questo è un crimine, è una specie di crimine. Uso un termine un pochino forte, evidentemente non in senso stretto, in senso metaforico. E se quella persona non è pronta a morire? La vera bontà e la vera misericordia, sarebbe chi chiama il parroco, fa qualcosa, parlaci. E fagli capire che forse sta arrivando il momento e tu ti devi preparare. Tu ti devi confessare, cioè ci sono i sacramenti che si danno ai moribondi. I sacramenti prima della morte sono tanti, sono. C'è la confessione, possibilmente generale, se uno non l'ha fatta prima. Poi c'è l'unzione dei malati, un tempo chiamata estrema unzione. Poi c'è il viatico, che è l'ultima comunione. Poi ci sono le preghiere di raccomandazione del moribondo, quando veramente dopo aver ricevuto coscientemente questi sacramenti, comincia ad avviarsi verso la fine. Se vogliamo aggiungere, c'è anche la pratica devozionale, che non c'entra con la liturgia, queste sono tutte quante operazioni liturgiche, quella che ho detto adesso, che è la coroncina di Divina Misericordia. Così si muore. Un battezzato dovrebbe morire così, gli chiede lui i sacramenti, è lui che si prepara alla confessione generale. È lui che vuole con tutto il cuore ricevere il sacramento dell'unzione per essere pronto, l'ultima comunione. E da quel momento in poi comincia a prendere il crocifisso. A me è successo qualche rara volta, rarissime. Persone che prima di morire hanno fatto la confessione generale. Che pur avendo sofferto tanto, hanno detto: io da questo momento in poi comincio a chiamare il Signore a dire: vieni a prendere. Gli avevo insegnato: dico, guarda, che se c'è un crocifisso, prendi questo crocifisso e bacialo più che puoi. E sono morti così. Sant'Alfonso dice che se si fa questo, non si passa per il purgatorio. Lo dice lui. Io ci dobbiamo credere. Beh, Sant'Alfonso non è certamente. Non ha parlato ex cattedra, quindi non era il Papa che parla ex cattedra, però è insomma un santo di un calibro non indifferente ed è comunque dottore della Chiesa. Io non credo che Sant'Alfonso si poteva avventurare in un'affermazione così forte se non avesse avuto qualche ottima ragione per averne una sorta di certezza morale. Ma del resto, cioè, non è tanto difficile comprenderlo. Io sto accettando la penitenza che estrema che il Signore mi ha dato come conseguenza del peccato. Io ho avuto il mio amico Francesco che è morto così. Io l'ho sentito con le orecchie mie dire alla madre poco prima di morire, pochi giorni prima di morire. Io ero presente, stavo lì. Guarda, mamma, che io avevo chiesto a Gesù che mi guarisse, ma Gesù non mi guarisce. Non mi ha guarito e non mi guarisce. E noi dobbiamo fare la sua volontà. Ed io sono pronto e tu ricordati che c'è un altro figlio. Testuali parole. Io l'ho sentite. E c'è un particolare che ci fu poi una signora che portò la mamma di Francesco da Natuzza Evolo. Raccontiamo pure questa stasera. Era ancora viva, ovviamente, a suo tempo, Natuzza. Che appena la vide disse: oh, la mamma di Francesco, ovviamente non l'ha mai visto né conosciuto, la stava aspettando, signora, dice chiaramente. E gli disse che Francesco era andato subito in paradiso. Qualcuno ci va subito in paradiso, ma lo so io quello che ha passato Francesco con anno e come l'ha passato. Perché? Perché aveva sofferto eroicamente, senza lamentarsi e offrendo tutto, e perché aveva accettato la morte. Voi pensate quale crimine, alla luce di queste cose che si fa, Se si comincia a anestetizzare le persone, io ho avuto persone che non mi hanno chiamato, cioè che qualcuno gli ha detto, ma chiama il prete, fagli dare l'olio santo. No, no, no, no, per carità non fa venire il prete, eh. Che dopo questo si impressiona. Cioè io non, non si capisca il senso, io non sto giudicando, io mi sto addolorando. Perché frasi di questo genere fanno capire dove siamo arrivati. Da un punto di vista di fine del cristianesimo, fine della fede. Una volta sopra i letti dei parroci c'erano due campanelli nelle case, uno per il giorno e uno per la notte. Quello per il giorno si era perché se suonava quello della notte, il parroco partiva, si metteva la talare, che allora si metteva solo quella, e andava a dare l'olio santo dovunque, a qualunque ora del giorno e della notte. A me tutta quanta la mia vita, nonostante che io in continuazione dica ai fedeli, guardate che non c'è, mi dovete chiamare pure alle 4 del mattino per questa cosa qui, ma due volte forse tutta quanta la mia vita sacerdotale mi è successo di alzarmi la notte per andare a dare l'olio santo. E ringraziamo il Signore, forse sono stato pure fortunato. Mica penserete che non bisogna disturbare, eh? Un prete è come il medico sotto questo punto di vista. È chiaro che non è che puoi andare a chiamare alle 3 di notte perché devi parlare. D'accordo? O perché devi chiedere il certificato di battesimo? Perché dopo uno ti butta alla finestra. Ma per l'olio santo o per l'assistenza si chiama qualunque ora, non ci sono orari. E guai a quel prete che se lo chiamano non prende parte di corsa. Subito. Quando ti chiamano per questi motivi, non devi aspettare neanche 30 secondi. Dovunque stai, lasci tutto e vai, perché la morte non è che ti aspetta. Questo per dire la prima cosa. Quindi, la seconda riguarda il fatto che la morte è il sonno più lungo che ci facciamo in attesa della risurrezione. Giusto? Chi è che si è inventato i cimiteri? Che significa cimitero? Cimitero in greco, kumuterion, significa dormitorio. Capite? I cimiteri per noi sono luoghi belli, non sono luoghi macabri. Perché il cadavere, attenzione al termine che uso, il cadavere, che non coincide con la persona, ma il cadavere sta affrontando il sonno più lungo in attesa di ricongiungersi all'anima. E quindi che facciamo? Li facciamo bruciare a sti cadaveri? Tanto che vuoi che sia. Li facciamo bruciare i cadaveri? È una pratica cristiana? No, che non lo è. Io credo di averlo già fatto questo discorso, non so se in questo ciclo di catechesi, però se l'avessi già fatto, ripetita iuvant. La cremazione non è una pratica cristiana. Un tempo era proibito il funerale canonico, le esequie a chi sceglieva la cremazione. Adesso pensate che nel nuovo rito c'è addirittura la celebrazione delle esequie con l'urna cineraria. Io non dico niente, insomma, ma questa cosa nacque come, dice, vabbè, ma non è detto che una persona che si fa cremare, lo faccia in spregio del dogma della risurrezione, come in tantissimi casi, voi sapete che come dire, gli atei e i miscredenti si fanno tutti cremare. E spesso e volentieri anche spargere le ceneri. Si vede anche in alcuni prodotti cinematografici o televisivi questa prassi, no? Tutti bruciati e tutti quanti con le creme in coco, con le ceneri sparsi. Certo, non è detto che un battezzato che faccia questo lo faccia, magari dice, sai, non c'è i soldi per pagarsi la tomba, che ne so, oppure è un momento che non c'è posto al cimitero, che ne so, potrebbero esserci delle motivazioni, ma dovrebbero essere eccezionali. Ma che cosa succede come al solito? Come al solito, ho scritto qualche giorno fa un articolo su come è stato possibile che nella Chiesa Cattolica cominciasse a distribuire l'ostia in mano, come eccezione, no? Come eccezione che va a legalizzare un abuso già insorgente. E adesso sappiamo tutti quanti come ci siamo ritrovati, no? Com'è la situazione in moltissime chiese, quanto e tanti fedeli si lamentano di tante cose. E adesso che facciamo? Tutto quanto è nato come eccezione. E adesso, come sempre accade, l'eccezione diventa la regola. Ma bruciare una persona, oltre al fatto che io a pelle proprio non saprei, insomma, dire cosa nostro Signore pensa, sicuramente non è una cosa, cioè, da incoraggiare. Anche perché il defunto perde una marea di suffragi possibili, quelli legati a alcuni sacramentali che si fanno post mortem. Per esempio, ogni volta che si porta nel fiorellino, uno fa una preghiera sulla tomba, fa un eterno riposo. Diciamo, un eterno riposo, posso farlo anche a casa? Sì. Si può aspergere l'acqua benedetta, come nel giorno in cui il sacerdote accompagna la sepoltura. La liberazione delle anime del purgatorio, a chi gli interessa, si vada a fare una cultura non soltanto con Maria, con Natuzza Evola, ma chi la conosce anche con Maria Simma, vada a leggere cosa dicono le anime del purgatorio di quella carità che hanno chi va al cimitero e porta un po' di acqua benedetta a sperge le tombe. Vada a leggere. O porta al cimitero una candela benedetta. Vada a leggere. Se tu lo bruci, tutte quante queste cose non le avrà. E queste cose sono di enorme sollievo per le anime purganti. E se quel defunto sta in un purgatorio terrificante e profondo, diciamo, io gli faccio celebrare le messe, speriamo, ma se c'è qualche altro mezzo di suffragio in più, perché toglierglielo a priori? Dice, ma l'ha deciso lui, e anche qui. Se l'avesse deciso lui, sarebbe compito dei familiari, anche coinvolgendo magari il parroco, perché no? Che stanno a fare questi parroci dentro le parrocchie? Di parlarci e di spiegargli tutte queste cose che io sto dicendo, in modo tale che prima di farti bruciare ci pensi 3 volte. Ma sapete qual è il problema? Il problema è quella nota scritta dall'allora prefetto della fede, che era il cardinal Müller, ancora vivente, controfirmata evidentemente dal Papa, che adesso ci sono le nuove manie, perché molti fanno bruciare i propri cari, sapete perché? Perché si portano le ceneri a casa, cosa che è proibita, questa sì, dalla legge della Chiesa. Oppure qualcun altro si prende un mucchietto di cenere e si fa fare una bella medaglietta con dentro le ceneri da portarla al collo. Quindi, queste pratiche sono pratiche pagane, sono pratiche umane, sono pratiche sdolcinate che non servono a niente, se non a soddisfare la propria disordinata affettività. Così come tutte quante quelle commedie che vengono fatte al termine delle esequie nelle chiese, che adesso ormai è diventata una prassi, cioè un funerale ordinariamente non finisce se ancora dentro il luogo sacro non si vadano a fare delle montagna di, come dire, commemorazioni funebri, che io ne ho sentite diverse. A me mi piange il cuore, capite, da prete, perché un defunto sentire quelle cose, perché le sente, non è che è diventato sordo. Sta piangendo quello lì. quelle cose che quelle commemorazioni sdolcinate o quelle enfatizzazioni inopportune, magari, cioè di quelle non contano più niente per un defunto. Niente. Si fanno quelle cose e non si fa manco la messa per l'ottava poi. O per il trigesimo. È tutto ridotto a emotività malata, intramondana. Anche queste cose sono una sorta di tentativo di esorcizzare, che quello è morto. Il morto non significa che non c'è più, ma il morto significa che le frequenze su cui lo trovi dopo sorella morte sono quelle soprannaturali. Perché un morto, se qualcuno di voi avesse la possibilità di entrare in contatto con una persona defunta, vedrebbe che le frequenze della persona defunta sono altre. Non c'è più niente di umano, inteso come legato alle piccinerie della vita terrena transeunte. Stanno in un altro mondo. E noi dobbiamo imparare a relazionarci con loro, con le categorie dell'altro mondo. Prega per lui, portagli i sacramentali al cimitero, fagli celebrare una montagna di messe. Se vuoi fare cosa buona e carità a Dio, non serve che fai le commemorazioni sdolcinate, che tra l'altro queste sono prassi. Grazie a Dio alcuni vescovi, alcuni parroci, almeno, grazie a Dio, terminano la messa. Escono sul sagrato, portano i microfoni fuori e quantomeno distinguono questo aspetto, perché capite, quando questa prassi si va consolidando, poi fermarla ci sta poi che ci scappa il morto. Non è mica tanto semplice, io ve lo dico perché lo so. La puoi semplicemente poi controllare, ti puoi trovare dei modi che quantomeno, come dire, non vadano a intaccare la sacralità del rito. Cioè, io spiego, dico: guardate, figli, questo è un rito sacro e questo è un luogo sacro. Vuoi manifestare queste cose umane per carità? Va bene, ma fuori del rito sacro non si può. Cioè, quello non è una cosa che fa parte perché della messa fa parte l'omelia. E poi ci sono, dopo la comunione, i riti di commiato religioso dal defunto, che sono le preghiere per il defunto, accorrete la sua anima, accogliete la sua anima e presentate al trono dell'Altissimo, e le ultime formule di raccomandazione. Cioè in chiesa ci si congeda in questo modo soprannaturale con il defunto. Poi se tu vuoi il congedo umano, se ci tieni proprio tanto, lo fai al momento e nel luogo opportuno. Ma questo è rarissimo che accada, perché come tutte quante le cose, purtroppo una volta che poi una prassi va avanti, viene di fatto quasi accettata e stop. Bene, io direi che possiamo mettere un punto, ricapitolando quello che abbiamo visto, insomma, questa sera, no? Quest'ultimo punto è abbastanza importante, cioè la morte di Gesù ha trasformato la nostra morte, e la morte deve essere vissuta come atto di fede per antonomasia, sia dal candidato alla morte, quindi da quello che la deve affrontare, sia dal suo contorno. Perché altrimenti diventa, cioè, guardate che, cioè, poi lo vedremo nel corso di queste catechesi, la persona che non arriva alla morte preparata come Dio comanda, rischia la dannazione, che non è un'eventualità, cioè, ma sa, vanno tutti in paradiso e in purgatorio, forse qualcuno che sarà proprio cattivo, cattivo, cattivo va all'inferno. Questa è un'altra, come dire, manifestazione della mentalità dominante, molto gradita ai diavoli, chiaramente, perché così riempiono l'inferno. Ma A suo tempo io leggerò mica una, 200 testimonianze che tra padri della Chiesa e santi che hanno visto queste cose qui e che ne hanno parlato, tra cui c'è la Santa Faustina, l'apostola della Divina Misericordia, che ha visto l'inferno e lo ha descritto, e ha anche spiegato che non è, che c'è stato un sacco di gente, quindi che non ha fatto un'eccezione, sai, su 10, su 1.000 che ne muoiono, ma ci saranno 3-4 criminali che vanno all'inferno, poi il resto vanno in purgatorio e in paradiso. Ma chi l'ha detto questo qui? Chi lo ha detto questo? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Se non nella capoccia, come dire, di chi si ritiene di poter riscrivere la fede e la rivelazione a propria immagine e somiglianza e non trasmettendo quello che abbiamo ricevuto, come scrive San Paolo, per il bene delle anime. Va bene, per oggi possiamo fermarci, amici carissimi, e ci aggiorniamo chiaramente, se Dio vuole, la prossima settimana con una nuova puntata. Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre a tutti e ovunque vi protegga.